Degna, pensiamo, d'essere diffusa da San Daniele, culla di Focolars, anche la radiocronaca registrata recentemente a Parigi, dove San Danielesi e carnici fanno onore al paese natio. Anche a Parigi un Focolar, il primo in terra di Francia, acceso nella Domenica delle Palme, mentre sui toni grigi dei boulevard si stacca il verde tenero delle foglie. Acceso nel Faubourg Saint-Antoine, e precisamente nella sede dell'Union Valdôtaine, per la cortesia del signor Bertat, che da buon valdostano ha accolto nel proprio caffè i friulani, figli anch'essi dei monti. Fra valligiani ci si intende subito, ci si vuol subito bene, e si canta affratellati dagli stessi sentimenti. Un canto, infatti, dice la nostalgia che s'annida dei cuori, nostalgia di limpide acque, resa da una villotta la quale, se non appartenesse al canale di Gorto, si direbbe fiorita sotto il Monte Bianco o in Provenza. Ed ora, mentre le voci si allontanano, qualche saluto a mezzo del microfono di Friuli nel mondo ai residenti nelle Americhe. Licio Moroso da San Daniele del Friuli, Parì, Hotel Royal Pigalle, a Simonetti, Teresa ed Antonio, residenti a New York. Sono lietissimo di aver potuto incontrare e rallegrare con alcuni giochi di prestigio i friulani di Parigi. Mi esibisco attualmente al Lido dei Campi Elisi e sono felicissimo, cari zii, di potervi inviare i miei migliori auguri e tanti baci. Giuseppe Cesaratto da Vivaro, Parì, 132, 2 Rue d'Avron, allo zio Battista Cesaratto, Pittsburgh, 1258, Lincoln Ave. Soy Pionevut, Beppu, e c'è molto stato, ben. Ed è ora che tu vieni a gettarmi. E ti saluti? Dietro Fornezza Benemonto, Parì, 11, Rue de Reilly, a Duratti Antonio, Palmano Romano e Zanier Giovanni, residenti a Buenos Aires, a Chiaruttini Leopoldo, residente a Chicago, e a Burba Eligio, residente a Pittsburgh, tutti di Enemonto. Unis al Furgolar Furlan, di Parigi, domandin un saluto di cur e buone fortune a lui e si chiatterin sotto il rogo. In queste voci, sperdute nella metropoli, il richiamo agli affetti più intimi, ad una luce fuori del tempo e degli affanni. Sì, o amici che ci ascoltate, è la luce del focolare acceso nella Domenica delle Palme, sulle rive della Senna, all'ombra della Torre Eiffel e di Notre Dame. A questa luce guarderanno d'ora in poi i 50.000 friulani che onestamente e talvolta duramente lavorano nelle miniere, nei campi, nelle fabbriche, nelle botteghe artigiane di Francia. Se distanti nello spazio, vicinissime nel ricordo le voci che dopo le precedenti stanno per alzarsi all'ombra del campanile di Maiano, un paese di emigranti poco lungi da San Daniele. Davanti al microfono di Friuli nel mondo è ora il sindaco della città di Guarnerio. Vi parla Giorgio Zardi, sindaco di San Daniele. Rivedo tutti gli emigrati, li rivedo sui banchi della scuola o nell'abbandono dei giochi lungo le vie e le piazze che allietano il nostro colle. Sono felice di annunciarvi che la città sta ingentilendosi, abbellendosi, un fervore di vita nuova accomuna i sandanielesi nei propositi di una stessa civica attività, come nel desiderio crescente di volervi più bene. Siate fieri, o amici della vostra culla, ammantata in questa stagione dal verde della primavera. Che Dio us dedi dal ben. Ed infine il presidente della Famee Furlane di Rosario di Santa Fe, Isidoro Selva. La buona fortuna mi ha riportato dopo 27 anni nel Friuli natio. Vengo da Rosario di Santa Fe, dove la vispera della mia partenza, in una cena di despedida, ho avuto l'onore di essere acclamato presidente di quella nuova Famee Furlane. Da San Daniele, centro della piccola patria, saluto tutti i compatrioti dell'Argentina, in particolar todos los amigos de Rosario, ai quali raccomando caldamente di non far mai manciar el hueli alla nostra lum. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Profili di città, la Siena del Friuli. Testo di Chino Ermacora. Hanno partecipato alla trasmissione il cardinale Celso Costantini, il soprano Adele Sticchi col coro Mazzucato di Udine, diretto dal maestro Mario Dini. Il coro della Fari di San Daniele del Friuli, diretto da Don Tullio Tavagnacco. Cantori friulani a Parigi. Parenti di emigrati. La prossima trasmissione dedicata ai friulani delle Americhe è fissata al 26 maggio per il Nord America e 28 maggio per l'America Latina. Ripetiamo, 26 maggio per il Nord America, 28 maggio per l'America Latina.